Elle avait des yeux d'opale, qui me fascinaient. Il y avait l'ovale de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Io ero perfettamente convinto che quello fosse il manuale per la donna ideale. L'ho detto in totale sincerità, pensando di aver fatto un atto di coraggio, di dire ad alta voce quello che tutti gli uomini non hanno mai avuto il coraggio di dire rispetto ai loro desiderata nei confronti di una donna. Ecco, come dovrebbe essere la donna ideale? Ecco, io per stilare un manuale credibile scelsi un fantastico quanto deprecabile alla luce del politicamente corretto elenco di doti della moglie perfetta che mi segnalò una mia amica messicana. Quindi immaginate che il macio messicano aveva questo vademecum per addestrare la moglie a essere come lui vorrebbe, quindi dedita a lui, lui è il centro dell'attenzione, lei si occupa soltanto del suo piacere, del suo benessere, non fa domande, non pone ostacoli, insomma una specie di larva umana al suo servizio. È questa la donna ideale? Vogliamo scherzarci sopra un attimo e riflettere su quello che è il sogno nascosto che è lecito avere anche soltanto per un istante di ogni maschio italiano. Elle avait des yeux d'opale, qui me fascinait, il y avait l'ovale de son visage pâle, de femme fatale. Oggi è una bella giornata di sole. Oggi è il giorno della sincerità. Oggi chiamo a raccolta tutti gli ascoltatori maschi che ascoltano questa trasmissione per tracciarmi il profilo della loro donna ideale. Oggi chiamo a raccolta tutte le graziose ascoltatrici perché mi traccino quello che è il modello in cui vorrebbero identificarsi per avere secondo loro il perfetto modello di felicità nella coppia, siate voi sposate, siate voi compagne, siate voi accompagnatrici, siate voi passeggere, donne di sollazzo o di tempo libero o di trasporto amoroso di alcuni maschi che avete la compiacenza di compiacere. La donna ideale, secondo l'opinione di 3000 single, è una donna che abbia un lavoro e guadagni più del partner, sia amante del vino ma beva nei limiti, esca senza trucco, sia più bassa dell'uomo, sia sportiva, guidi bene, ami le serate fuori con gli amici, ma anche la famiglia e i figli. Sia una buona forchetta e un'abile cuoca, ma anche che sia magra e ben curata. Ami il calcio in TV, sia pronta in 10 minuti e che sia felice qualunque cosa indossi. Abbia una grande carica erotica e che faccia sesso in qualsiasi momento. Sia laureata, abbia un sorriso dolce e un sedere piccolo e sodo. Capisca le barzellette, ami poltrire a letto, piaccia ai tuoi amici. Non abbia le mani bucate. Partiamo da un indicatore non molto, secondo me, significativo per tracciare questo profilo di donna ideale, ma è pur sempre un punto di partenza. Questo è un sondaggio fatto da un sito inglese su quello che i single inglesi però considerano la donna ideale. Io già da alcune delle tracce che sono state indicate da queste risposte mi fa pensare che c'è molta ambiguità in questo modello. Io direi se noi volessimo tracciare un modello mediterraneo, ma totalmente privi di ogni pregiudizio, totalmente liberati da ogni paura di non sembrare o di sembrare troppo. Abbiamo questa mattina libertà di totale, bieco, detestabile maschilismo, ma cerchiamo di capire qual è veramente la donna ideale, qual è il ruolo che in cui la donna idealmente potrebbe collocarsi, ma come vorrebbero veramente gli uomini che fossero le donne. 800240024, perché possiate liberamente questa mattina, nessuno vi riporrà mai alla responsabilità di ciò che avete detto questa mattina, c'è un momento di ampia libertà e una finestra aperta sulla sincerità profonda. Io devo analizzare però quelle che sono le risposte del pubblico degli uomini single inglesi, cioè coloro che ancora non hanno una vita di coppia, coloro che ancora non hanno assaporato i piaceri, non so, di tornare a casa, potersi togliere le scarpe, avere una donna che ti infila le pantofole, una donna che ti toglie la giacca e ti infila quelle belle, morbide e candide vestaglie, una donna che ti porta un bicchiere di una bevanda calda, oppure, se tu vuoi, un bicchiere di un superalcolico. Ti porge il giornale, ti porge la pipa. I bambini sono tranquilli, già messi a letto, silenziati, narcotizzati. Lei bella, splendida, truccata, profumata, sorridente. In cucina si sente il profumino del vostro piatto preferito. È lì, pronta per voi. Voi siete stanco, le raccontate tutte le rotture di scatole, tutto il tedio, tutte le angosce, tutti i meccanismi mentali che vi hanno portato ad essere eroe stanco quella sera, e lei silenziosa sorride e vi ascolta e non ha nessun problema per voi. Questa probabilmente potrebbe essere un progetto di donna ideale, un progetto di ideale rapporto di coppia, diciamocelo chiaramente. Sono passati tanti anni da cui apertamente e palesemente si poteva dire che questo era l'unico modello possibile. Beh, oggi, se questo modello ancora risponde alle vostre attese, ai vostri desideri, ai vostri piaceri, dite. Io qualcosa ho da dire invece sul modello di donna del pubblico maschile inglese. E innanzitutto trovo difficile pensare che la donna ideale sia una che ami il calcio in TV, che sia una buona forchetta e un'abile cuoca, quindi ami cucinare e ami anche mangiare. Non è giusto questo. Se la donna ama cucinare, mentre l'uomo mangia, deve stare in piedi a sorridere, a guardare, pronta a cambiargli il piatto, pronta a riservirgli la pietanza, perché deve mangiare anche lei. Che abbia un sedere piccolo e sodo, no, perché la donna avere il sedere piccolo, avere un sedere immenso, deve avere un sedere giunonico, deve avere un sedere che riempa tutta la casa della piacevolezza delle sue forme. Abbia un sorriso dolce, sì, il sorriso dolce va bene, purché abbia un sorriso sempre impiantato sull'eterno sorriso, non deve mai aggrottare il volto, non deve mai mostrare preoccupazione, non deve mai avere problemi, perché i problemi ci possiamo avere soltanto noi uomini. Guida della buona moglie. 11 regole per rendere un marito felice e per diventare la moglie che lui ha sempre sognato. 1. Pianifica in tempo una deliziosa cena per il suo rientro. La maggioranza degli uomini arriva a casa affamata e questo è un modo per fargli capire che pensi sempre a lui e che ti stanno a cuore le sue esigenze. Ancora meglio se gli prepari il suo piatto favorito. 2. Fatti bella. Riposati 5 minuti prima del suo rientro, così ti fai trovare fresca e pimpante. Ripassati il trucco e fatti più bella possibile per lui. Ricorda che lui ha avuto una giornata pesante, trascorsa in mezzo ai colleghi. Questa guida della moglie ideale ci è stata fornita da una leggiadra ascoltatrice messicana, la gruppi messicana Maria Castaneda, che stiamo cercando al telefono. Anzi, se ha modo di fornirci il suo recapito telefonico, la chiameremo quanto prima. Che, consapevole dei sani usi matrimoniali, delle sue latitudini, in cui sapete cos'è l'uomo nella famiglia messicana, una casa grande, una casa chica, ha una famiglia ufficiale, una famiglia non ufficiale, frequenta entrambe con ampio sollazzo e ampia possibilità di scelta. Ci ha fornito questa guida della moglie ideale, che è un prezioso decalogo tratto da Usos Amorosos della Posguerra Spagnola, che è probabilmente stato estratto da un romanzo della scrittrice Carmen Martín Gaite, che scrisse quello che era il modello della donna nella Spagna franchista, e quindi qualcosa che probabilmente assomiglia a quello che è il modello che possono allucinare i maschi italiani. Sentiamo Carla. Carla, buongiorno. Buongiorno. Ci aiuti a tracciare questa guida ideale della donna perfetta? Ma io più che altro avevo chiamato perché ho scoperto che all'età di 50 anni mi devo trasferire in Inghilterra, perché ho scoperto di essere la donna ideale dei single inglesi. Perché ha un sedere piccolo e sodo e un sorriso dolce. Allora, sorriso dolce sì, il sedere è sodo, proprio piccolo piccolo no. Allora non va bene per gli inglesi, lo vogliono ecco, piccolo. Ecco, insomma non è grosso però, è il stile inglese, va bene, perché loro hanno le donne col sederone a pera e il mio non è così. Sì sì, terribili, donne fiasco, lo so. Ecco. No, più che altro per tutte le altre caratteristiche, io non so come loro le abbiano messe insieme, però sembra il mio ritratto. Ama le serate fuori con gli amici, ma anche ama famiglia e figli? Sì, certo. Però la donna ideale non deve amare le serate fuori con gli amici, deve stare a casa quando l'uomo esce con gli amici, scusi. No. No, allora non è la donna ideale. La donna ideale sta a casa e aspetta che torni l'uomo. Guidi bene. La donna ideale non può guidare bene, poi non ha necessità di guidare. Io tanto guido benissimo. Ma deve stare a casa perché vuole guidare, non c'è bisogno. No, ma infatti io forse non sono la donna ideale per l'italiano. E sicuramente lei è una buona forchetta? Sì. Però mangia naturalmente separata in cucina mentre serve da mangiare agli uomini nell'altra stanza. Quando mai? Ma allora dov'è la donna ideale? Carla, non ci dà soddisfazione questa mattina. Sentiamo Franco. Franco. Buongiorno. Vediamo se lei ci aiuta a fornire, perché vedo che c'è una sorta di mentalità ancora abbastanza restia a fornire quello che è il quadro della donna ideale. Io direi che una delle prime cose è che si curi un po', accidenti. Tutte queste donne sciatte. Assolutamente, curatissima deve essere, certo. Ma no, senza, beh, curatissima come può, se poi magari spadellare al pomeriggio. E no, deve mettere i guanti di gomma quando pulisce per terra e dà lo straccio. No, e poi no, si mette no. Sotto le mani curatissime. Com'è? Soprattutto non deve essere un'oca, una che parla vanvera. No, meglio che non parla, scusi. Eh? Meglio sì, che non parla. No, un pochettino, non molto. Ma poco, però, il minimo indispensabile. Soprattutto abbia una visione positiva delle cose, dell'esistenza, perché è già un difficile vivere. Già fatichiamo tanto noi, che torniamo a casa dopo aver lavorato con tutti i problemi che abbiamo avuto. Possiamo anche sentire i problemi di una donna, scusi. Beh sì, no, al contrario, certamente. Anzi, direi che tutto sommato, fra le due cose, quello che fa più fatica è forse la donna in casa. Diciamocela tutta. Il suo ruolo è quello, stare a casa, cosa deve fare? Però tuttavia, riguardo a sedere, è tutto che sia normale. Nella normale quant'è? Quanti palmi? Caspita, aspetti che sono in macchina, vediamo un po'. Due palmi qualcosa. Ma anche tre facciamo, va. Facciamo anche tre, sì. Va bene, tre palmi di sedere da avere la donna ideale, 800 24 00 24. Aiutateci a definirla meglio. Oh, they say when you marry in June. Tre, sì, dolce e interessante. La sua noiosa giornata lavorativa magari ha bisogno di vivacità. Tu devi fare il possibile per renderla interessante. Uno dei tuoi obblighi è distrarlo e allietarlo. 4. Metti a posto la casa. Deve essere impeccabile. Fa un ultimo giro per i principali ambienti della casa, giusto prima che arrivi tuo marito. Raccogli da terra i libri dei bambini, i giocattoli, eccetera, e pulisci con un piumino i tavoli. 5. Fallo sentire in paradiso. Durante i mesi più freddi dell'anno devi accendere il caminetto prima del suo rientro. Tuo marito sentirà che è arrivato in un paradiso di riposo e ordine. Questo gli allieterà l'animo, e anche il tuo, perché preoccuparsi della sua comodità ti darà un'enorme soddisfazione personale. Buongiorno Alda. Buongiorno. Ha sentito? Stiamo dando le indicazioni perché lei sia felice. Le devo rispondere a tono? No. Allora, io posso dire la mia opinione in proposito? L'ho chiamata apposta. La ringrazio. Sono in macchina e mi sono fermata perché sono arrabbiatissima del discorso che state facendo, perché non capisco, cioè presumo che lo facciate con ironia, però... Ma lei non è ironica, lei è così aggressiva. Io adesso sono serissima e molto arrabbiata. Però, mi dispiace lei sia arrabbiata. No, nel senso che io... Dovrebbe sorridere per farmi felice. Con le donne e per le donne... E questi luoghi comuni, vecchi, stupidi... Hai ragione, essere con le donne per le donne è un vero luogo comune. Mi dispiace, poi detto da lei, abbia pazienza. Cioè detto da un uomo, ecco, non l'accetto questo. Io le dico, io lavoro con le donne per le donne. Faccio parte di un'associazione, ritengo che le donne siano molto meglio nella loro diversità. Diversità da cosa? Di quanto si... Diversità, nel senso che le donne non sono uno stereotipo, tutti uguali, tutti col culo lo stesso, uguale. No, tre palmi abbiamo detto. Tre palmi. Che il marito... Ma Alda, abbiamo detto tre palmi. Signore, siete fuori dal mondo. Questi sono i luoghi comuni più vecchi che io possa immaginare. Ma signori miei, le donne sono una cosa diversa e gli uomini pure. Io non capisco. Ma diversa la cosa, Alda? Radio 24, così seria, si permetta di fare queste discorsi. Le propongo io. Se non avete argomenti da riempire lo spazio della radio, le propongo un tema che riguarda le donne. Ci sta? La stiamo ascoltando, sì, lo dica. Perfetto. Allora, le donne rispetto alla comunità europea, a tutti gli stati della comunità europea, le donne italiane, non sono presenti né nella politica e nelle istituzioni. Come? Siamo pieni di ministri donne. Non dica sciocchezze. Come non dica sciocchezze? Scusi, è un dato oggettivo. Mi permetta. Non sono donne quelle. Forse lei non conosce la matematica, mi spiace. Però per le statistiche europee noi siamo agli ultimi posti, forse prima di Malta, ma non è sicuro. Dopodiché io propongo di discorrere... Ma lei è per le quote rosa, quindi? Come? Ma adesso un altro argomento, non stiamo parlando della piacevolezza di tornare a casa per una donna che ti mette le pantofole, che ti... Ho capito, ma allora questo si compra un robot, affitta una cameriera a tempo determinato e ha tutti i servizi che vuole. Ma poi no, bisogna pagarla la cameriera. Eh certo. Appunto. Questo invece è un rapporto d'amore, allora, dovrebbe farlo per amore. Lei lo dica con ironia, la prego, perché altrimenti poi no, sono chi molto lavora serio. Con le persone ha delle grosse difficoltà e questa è veramente una presa in giro. Perché, no, veramente, mi dispiace, io le lascio dire quello che vuole, ma dire che io la sto prendendo in giro mi dispiace veramente tanto. Lei non sta è così. Prendendo in giro tutte le donne, no? Non io, Alda. Sta vabbè, prendendo se... in giro sua madre, sua moglie, le sue amanti, sua figlia. Beh, lei come si permette di dire che abbia delle amanti? Non è, non... No, amanti la moglie nel ideale. Senso, lei avrà avuto dei rapporti di amore nella sua vita? In soltanto senso? Uno nella mia vita, l'ho amanti sposato. In questo senso, amanti, cioè di colui che ama, abbia pazienza, non in termini giornalistico di amante. Qual è il termine giornalistico? Di amante è... in termini suppone diciamo, rapporti di prostituti, clandestini escort e cose del genere. No, ma non occorre perché la donna ideale quando l'uomo esce la sera e va giustamente ama, a rilassarsi non vuol dire avanti colui che ama, quindi un rapporto di amore. La vedo signora, la vedo lievemente confusa, capisco che ascoltare questa serena dissertazione sulla donna ideale possa averla turbata, comprendo la sua protesta, il suo stato d'animo, comprendo anche la sua difficoltà, quindi le sono grato comunque del suo contributo. Marianna. Sì, pronto? Eccomi, la stiamo ascoltando. Buongiorno. Nulla, io volevo semplicemente segnalare che sono stati indicati delle, diciamo, aspetti fisici, comportamenti, però penso che sia molto importante sottolineare il fatto che una donna ideale possa essere una donna realizzata, molto armoniosa, sia dal punto di vista fisico che dal punto di vista mentale. Allora attenda Marianna, attenda che le faccio sentire un'altra delle regole d'oro, poi la commettiamo assieme. Sei. Prepara i bambini. Prenditi qualche minuto per sistemare i bimbi. Spazzolagli i capelli e cambia loro gli abiti, se necessario. Sono i suoi piccoli tesori e lui vorrà vederli lucenti. 7. Evitagli il rumore. Quando lui arriva, spegni la lavatrice, l'asciugatrice e l'aspirapolvere. Fai in modo che i bambini stiano zitti. Pensa a tutto il rumore che lui ha dovuto sopportare durante la sua pesante giornata lavorativa in ufficio. 8. Cerca di sembrare felice. Regalagli un grande sorriso e dimostra sincerità nel tuo desiderio di compiacerlo. La tua felicità è la sua ricompensa per il suo sforzo quotidiano. Ecco Marianna, trova sì. Sufficientemente realizzante questo tipo di attività per la donna ideale? Ma io penso che siano regole abbastanza valide, ma siano valide anche per l'uomo, anche perché forse si dimentica una cosa, che oggigiorno si lavora in due, per cui ecco, essere compiacenti potrà secondo me essere un discorso reciproco e quindi essere, cioè avere una casa priva di rumori. Ma l'uomo è uomo, scusi, l'uomo è uomo, mica può porsi questi problemi della mi casa. Mi sa che ci sia un atteggiamento un po' ironico sul discorso l'uomo è uomo. L'uomo è uomo, la donna è donna. L'uomo mica può mettersi a pulire per terra, a cucinare, a fare queste cose. L'uomo mica può cucinare, pulire. Perché no? Perché è uomo, sono compiti da donna. Dipende dall'equilibrio che c'è in una coppia. Ma l'equilibrio c'è, infatti lo stiamo elencando attraverso le regole d'oro della donna perfetta. L'uomo torna a casa, si siede perché ha lavorato tutto il giorno in ufficio, la donna che ha preparato la casa. E qualora la donna abbia lavorato anche lei tutto il giorno? Infatti ha lavorato, ha pulito per terra, ha cucinato, ha pulito i figli. Ah, ecco, quindi in un'idea di una donna che sia in casa. Questa è la donna perfetta, è questa. Sì, non è che le ho fatte io le regole, le sto semplicemente... Ma diciamo che queste regole sembrano regole di una geisha, per cui potrebbe essere sicuramente un discorso... Ma di no, quella è la madre dei suoi figli, è la sua sposa perfetta, sì, non è una geisha. Sì. No, in questi termini lo è. La geisha è una donna che lo fa prezzolata, questa è la donna che lo fa in nome di un progetto d'amore che hanno condiviso. Lei sta a casa, pulisce, lava, prepara i figli, fa in modo la casa sia silenziosa, lui quando torna sta... Mi sembra una visione anacronistica di una donna ideale. Proprio perché anacronistica è allettante, tutti vorremmo che fosse quella, non è d'accordo? Io credo che il mio uomo non lo vorrebbe una cosa, anzi lo so per certo. Poverino, lo so, infatti vivrà infelice probabilmente. Cosa? Infatti vivrà infelice probabilmente il suo uomo, dovrà mediare ogni giorno con il suo desiderio, con quella che è una triste prassi, una donna che torna a casa, sciatta, che ha lavorato, che lo costringe magari, no, lo costringe addirittura a scaldarsi il cibo la sera. Triste, ma che si collabora insieme. Ma infatti problemi. Collabora, la donna perfetta è collaborativa, pensi sorridere, tornare a casa, quell'uomo stanco, gli toglie le scarpe e gli massaggia i piedi, gli mette le pantofole, gli dà qualcosa, lo vede felice finalmente, e la sua felicità è la felicità della donna. Rita? Rita? Rita? Sì. Sì? È lei Rita? Sì, sì, pronto, buongiorno. Sto aspettando il suo prezioso contributo per definire... Il allora, modello donna perfetta. Ho seguito la radio, ma ultimamente ho dovuto spegnere perché altrimenti non... Abbiamo detto, scusi, che il sedere deve essere almeno tre palmi. Sì. Corrisponde? Ma io penso proprio di sì, però questo dovrebbe dirlo mio marito, se sono tre palmi. Beh, se lo può misurare da solo, scusi. Infatti. Beh, comunque anche un po' meno, comunque sì. È un po' sì. Meno, andiamo male, certi un po'. Ah no, allora diciamo, comunque, vabbè, va bene lo stesso, insomma, ci si... Beh, tre palmi sarebbe meglio. Va bene, allora volevo mangiare di più, fare qualcosa di più. Ecco, volevo dire una cosa in merito alla signora che ha telefonato prima. A me dispiace per lei. Io sì, poverina, arrabbiata, fa parte di un comitato politico di difesa dei diritti delle donne, quelle cose che poverina. No, ecco, quello che mi sentivo di dire è che io quando torno a casa mio marito la sera, mi sento, cioè la metto tutta, insomma, per far sì che invece ci sia un ambiente il più accogliente possibile. E giustamente, a volte, certo. A volte non sempre ci riesco, però... Male. Si deve impegnare. So, perché, ma io ho figli, cioè... Ma i figli li mette a letto, li narcotizza, non facciano rumore. Certo. Oh, giustamente. Lei però, si fa bella dopo aver lavorato in casa tutto il giorno. Avere del pagamento, come diceva la signora... Beh, lui la pagherà assolvendo al suo debito coniugale una volta a settimana il sabato, almeno certo, questo. Certo. Non è contenta, non è felice. Ma oggi siamo qui per parlare di quello che forse è il libro più importante che ognuna di noi abbia mai letto. Sì, è provocatorio, ma anche stimolante. L'edizione speciale Superlusso della raccolta aggiornata e completa degli oggettini e pensierini natalizi. Questo libro dice: quest'anno celebreremo la nascita di nostro Signore con la lana. A me è piaciuto il capitolo sulle pigne molto. Non ci si fanno solo ghirlande e centrotavola. Puoi usare le pigne per una decorazione speciale, una tua menora. Io voglio creare un Babbo Natale a grandezza naturale, tutto fatto di pigne. Ok. Naturalmente, per la donna ideale che stiamo delimitando, questo è uno dei periodi più difficili, ma anche più creativi. Oltre tutte le cose che naturalmente fanno parte della prassi quotidiana per rendere felice il proprio uomo, che abbiamo felicemente condiviso con molte ascoltatrici e ascoltatori nella prima parte di questa trasmissione, esiste l'impegno aggiuntivo di creare un clima natalizio. E quindi mi sembra che la passione per il bricolage domestico, trasformare le pareti già ridenti, la propria abitazione, in qualcosa di più, in qualcosa in cui un trionfo di pigne, di muschio, di fiocchi colorati, di campanellini, di lucine, renda ancora più accogliente e giustamente e consono al clima natalizio in cui tutti devono volersi bene, il rientro a casa del vostro uomo. 800 24 00 24, questa mattina, in un momento di totale sincerità, di totale sdoganamento da ogni pregiudizio, da ogni pura di sembrare non politicamente corretti, ognuno dica qual è la perfetta realizzazione nel rapporto fra maschio e femmina. Giovanna, buongiorno. Di pensare a me. Ciao Gianluca. Pensare a lei? Sì, di pensare a me. C'è un atto di egoismo così cinico. Allora Gianluca, posso rivoltare la domanda? Certo. Ti piacerebbe avere una donna così? Ma io ce l'ho, sono già fortunato, non la devo cercare. No, appunto, cioè tutta come la descrive... Assolutamente, sto descrivendo la mia situazione personale. Ah, ma sei fortunato. Certo, sono molto fortunato, voglio condividere la mia fortuna con gli altri. Certo, quando torno a casa... Però voglio dire, è una comodità. Certo, però ascolta Gianluca, per una donna diventa una, come posso dire, uno sforzo dalla mattina alla sera. Perché? E tutto il giorno deve fare la casa accogliente, perché deve accudire, giustamente, ha preso l'impegno, ha fatto il matrimonio, i figli, tutto. Ovviamente la gioia, quel momento fatidico quando alle 19 di sera rientra e incontra il marito, ha dato un senso alla sua giornata, l'aver pulito, preparato, cucinato, organizzato. Ma potrebbe avere anche due balloggi grossi così, Balloggi cosa sono? Adesso da Bologna allora... No, interessa. I balloggi? Ti ho insegnato una parola nuova. Ma no. Due scatole così, perché... Alludi agli attributi maschili, ma la donna non ce li ha. No, voglio dire, cioè, è vero che l'uomo è fuori casa per lavoro, per certo, passare bene la famiglia e tutto. E sono responsabilità. Però, insomma, tu lì il decalogo della donna come deve essere, porca miseria, è uno sforzo giornaliero. Allora, appena che sai che è l'orario, ma pensa alla che gioia, arriva lui, deve andare in bagno e pulirti tutta. Bellissimo, profumata. Certo. Io se mi voglio truccare a far bagno dopo aver fatto la mia ginnastica, lo faccio anche per me. Eh beh, guarda, perché aspetto lui, perché dopo chissà cosa. No, chissà cosa. No, una volta, una volta settimana. Una volta settimana. Una volta settimana l'uomo finalmente assolve al debito coniugale. Sì, va bene, però ricordati Gianluca che ci sono tante situazioni che pur la moglie quando arriva a casa che è truccata, che è qui che là, non mi fa ripetere quella parola, lui si è già divertito fuori con quelle dell'ufficio, ma con quelle della banca, poverino, e tutto. Ma con tutte le responsabilità che ha, ma è normale questo, la donna in quel caso, la donna ideale in quel caso non è che fa una scena, capisce che lui ha avuto una vita difficile, quindi poverino, ha anche questo tipo di bisogno, poi sempre uomo, l'uomo è uomo, lo sai. L'uomo ha delle esigenze che le donne non hanno, quindi è ancora più sorridente capendo che lui in realtà si è già prodigato per altre donne. Michela, sentiamo Michela. Buongiorno. La sto ascoltando. Sinceramente, io ho ascoltato tutte le signore che hanno parlato prima di me. Sinceramente, se devo dire la mia, mi sento un po' in difficoltà. No, no, lei questa mattina si può parlare liberamente, ognuno parla liberamente, nessuno si sente giudicato. Sì, ma difatti l'unica cosa è... Vuol dire che lei è d'accordo con la regola della donna perfetta? Diciamo che cerco di fare così. Poi vede la difficoltà, una che deve fare delle difficoltà, nascondersi come una clandestina, come se lei fosse una sorta di nemico dell'umanità, per fare quello che sarebbe l'ordine naturale delle cose. Lei si fa bella quando rientra il suo uomo? Diciamo che cerco di fare, diciamo che già la mattina cerco di essere molto carina, ma non solo... Quando lui esce, naturalmente. Sì, perché mi dà fastidio che mi veda proprio, diciamo così. Poi, quindi lei si alza l'alba, naturalmente, prepara la colazione e poi si va a fare bella. Cerco di presentarmi ancora prima di fare la colazione bella. Sì, perché poi la mattina può anche usufruire di quella sorta di naturale vigoria che a una certa età, devo dire, è una sorpresa. Quindi è giusto che lei si faccia bella la mattina, poi lui esce contento. Sì, visto che per lavoro ho un lavoro di rappresentanza che è molto sarà pieno di pesante, difficoltà, poveraccio, di responsabilità. Allora, e quando torna la sera come lo gratifica? Allora, se voglio proprio farlo contento, mi viene da ridere, ma è la verità. Ho sposato una persona che ama trovare davvero il caminetto acceso. Certo, ma è normale, perché deve dirlo con difficoltà? Dobbiamo vergognarci di un desiderio lecito. Io posso dire, mi piacerebbe avere un elefante trans. E tutti dicono, bene, giusto, chiaro, normale, deve essere così. Dico, voglio il caminetto acceso con la moglie ben messa che mi accoglie e mi fa felice. Sì, devo sentirlo come un desiderio... Che gli piacciono, col calice di vino rosso, quello che piace a lui. Brava, eccetera, eccetera. Brava. E poi i figli a letto. Prego? I figli a letto. I figli hanno già fatto i compiti, chiaro, hanno fatto la cartella. Tutti carini, hanno salutato il papà e vanno a dormire. Sì, l'unica cosa che chiediamo, che io cerco di imporre un pochino, è niente televisione accesa. Giustamente. Quando si cena per parlare. Certo. E dopo cena? Lo e ascolta cena, e lui racconta i problemi che ha avuto. Sì, naturalmente si discute. Discute, cioè lei ascolta, lui parla, non è che si discute. Sennò... Si discute nel senso che... Lei ascolta, lui parla. Lui parla dei suoi problemi di lavoro. E lei fa sì racconto, e sorride. Io ascolto sempre perché secondo me... Adesso non vorrei dire delle fesserie che magari gli altri dicono... Perché dagli uomini si può imparare sempre tanto. L'ha detto, una grande verità. Dagli uomini si può imparare tanto, giusto. Perché lui ha girato, è stato fuori, ha conosciuto il mondo, vede gente. Lei sta a casa e fa il suo lavoro. No, assolutamente. No. Io lavoro tutto il giorno anch'io, vedo un sacco di uomini anch'io perché... Beh, li vede soltanto... No, ci parlo, ci devo lavorare. Ma va anche oltre, non scende l'intima d'azione, spero. No, mai, non mi interessa proprio. Quello solo con il marito. Sì, assolutamente. Va bene, sì. Mi sembra un quadro ideale, lei non si deve vergognare, lei è perfettamente in linea con il modello di donna ideale che stiamo cercando noi questa mattina di delimitare. In November the snow starts to fly. 9. Ascoltalo. Forse tu avrai una dozzina di cose importanti da dirgli, ma il suo rientro non è il momento migliore per parlarne. Lascialo parlare per primo. Ricorda che i suoi temi sono più importanti dei tuoi. 10. Mettiti nei suoi panni. Non ti lamentare se arriva in ritardo, se esce a divertirsi senza te o se rientra in piena notte. Cerca di capire il suo mondo di impegni, di pressioni e di compromessi. 11. Non ti lamentare. Non lo esaurire con i tuoi problemi insignificanti. Qualunque tuo problema è un piccolo dettaglio paragonato a quello che lui ha dovuto affrontare. Una brava moglie sa sempre qual è il suo posto. Tieni una bibita calda pronta per lui. Sistemagli il cuscino e sfilagli le scarpe. Parla sempre con voce dolce e piacevole. Cristina, buongiorno. Io sono qui che rido. Rido e mi piace da morire questa trasmissione. Oh, l'abbiamo fatta felice, ha trovato la sua dimensione. Decisamente ho trovato la mia dimensione. Quello che mi stupisce... Non ci voleva molto, bastava un attimo riflettere su ciò che ci faceva piacere. Ma in effetti, guardi, quello che mi stupisce è che molte signore che hanno chiamato non abbiano percepito l'ironia. Ma perché non provano questa deliziosa maniera di impegnare il proprio tempo femminile? Ma se lo provassero, capirebbero che è l'estasi. Ma certo, è l'estasi che io ho tentato di provare, di far provare a mio marito i primi anni di matrimonio. Mi faccia un esempio, cosa faceva per portarlo all'estasi? Classica colazione con tovaglietta all'americana, tutto pronto, la spremuta. Certo. Quindi bisognava alzarsi almeno un'ora prima di lui, minimo. Assolutamente. Perché doveva anche farsi bella, non è? Poteva presentarsi lì con l'alito ancora di notte. No. Io ho tentato di fare questa cosa, ero l'educazione di mia madre, che il marito ha sempre ragione, io ho tentato di fare... Le vecchie sane mamme di una volta che non ci sono più. Sì, in effetti. Però cosa succedeva? Che... ho smesso nel giro di 15 giorni perché? Ma perché preparavo tutto con spremuta, come le dicevo, tutte le cose pronte, certo. E non facevo in tempo a ingollare una tazzina di caffè che correva in bagno. Aveva dei problemi di dissenteria. Beh, insomma, non diciamo così, però di fatto la sua abitudine era quella data da mamma. E caffè ingollavo al volo e quindi sa cosa ho capito? Da mettergli l'imodium dentro il caffè. No. Però ho capito negli anni, mi ci sono voluti tanti anni, dottor Nicoletti, per capire che il vero rapporto è basato sulla serenità di entrambi. Beh, lei si sposa un uomo con dei problemi intestinali, e quello è un altro caso. Ma no, adesso detta così sembra questa cosa, invece no, erano le sue abitudini, e credo lo siano tuttora le sue abitudini. Ma crede nel senso che non vi frequentate più? Ci frequentiamo, ma siamo praticamente separati, con un ottimo rapporto. Anzi, adesso che ho preso più consapevolezza delle mie potenzialità, ci ho messo del tempo, Ma lei poteva pensare, scusi, al tempo, non per darle delle soluzioni ormai a posteriori, magari con un pannolone poteva risolvere il problema e avere ancora del tempo prezioso di suo marito a disposizione. Beh, la vedo che lei ironizza su quello che dico, come se io dicessi facezze. Io molto seriamente le davo delle lezioni di felicità, visto che sono un uomo e dall'uomo si impara sempre qualcosa. Lei non mi vuole ascoltare e quindi passo a Maria. Maria, buongiorno. Buongiorno Gianluca. Ah Maria, tu sei l'origine di tutta la felicità di questa mattina, colei che mi dette il decalogo della donna perfetta. Sì, penso di essere io, ma io sinceramente te l'ho mandato perché mi sembrava una cosa molto carina da farti vedere. L'unica cosa che ti devo dire... Vorrei sentirmelo dire più spesso questa frase. La cosa che ti dico è che il Messico da dove vengo io, questa è una realtà. Lo so, ci sono dei posti dove ancora questa terrificante civilizzazione non è ancora arrivata e grazie a Dio ci sono delle vecchie regole, quindi tu sei stata abituata a queste regole qua. Guarda, ti dico solamente che una volta quando sono andata in Messico con mio marito, mia sorella ci ha ospitati. Praticamente era mattina, mio marito si è alzato, è sceso giù in cucina, ha cominciato a fare il caffè, a preparare per lui e anche per me. Ma è una cosa orribile. Guarda, così ti ha fatto fare una figura orrenda, potevi dirlo? No, guarda, la mia sorella non mi ha parlato per tipo 2, 3, 4 ore. Vorrei vedere. Mi hanno sputato in faccia, ma tu... Come ti permetti? Con chi ti sei sposata? Badare a tuo marito. Dove hai trovato questa sorta di avanzo di uomo? Lo so. Capisco Maria, capisco il tuo dolore, capisco il fatto che veri uomini non si trovano più, almeno alle nostre latitudini, ma qualcuno forse ce n'è, come Andrea. Andrea? Sì, buongiorno. Dunque, noi volevamo esprimere due concetti. Noi quanti siete lì? Siamo in due, e il mio amico Zappa. Dite. Allora, dunque, anzitutto volevamo capire come... Cioè, in che modo avviene questa misurazione dei tre palmi, cioè se questi tre palmi sono intesi in senso lineare, cioè diciamo di proiezione ortogonale, cioè di diametro del sedere. Ma si parte dall'apice laterale del bacino, naturalmente, con il mignolo, si pone il mignolo nell'apice laterale del bacino e se no si procede, appoggiando il pollice della mano destra sul pollice della mano sinistra e si ha il secondo palmo, poi si riporta il mignolo della mano sinistra sul mignolo della mano destra, si ha il terzo palmo. Sembra banale, tutti lo sanno. Intaccato, allora siamo concordi, perché altrimenti i tre palmi sarebbero stati un po' eccessivi, in senso. E poi un'altra cosa fondamentale è che sicuramente la donna ideale non deve parlare di calcio, questa è una cosa che assolutamente, cioè non deve parlare in assoluto di calcio, poi ragioni più, perché cosa può capire una donna di calcio? Io non capisco nulla, ma penso nemmeno una donna. Vi saluto, vi ringrazio, ci sentiamo domani. Alors tous deux on est partis dans le tourbillon de la vie. On a continué à tourner tous les deux enlacés, tous les deux enlacés.